Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera cari ascoltatori e gentili ascoltatrici, eccoci qua come ogni domenica per stare un'ora in vostra compagnia. E chi vi parla è Gesi con Antonio. Antonio, buonasera, ciao Antonio. Buonasera amiche e amici, diamo un cordiale benvenuto a tutti voi su Blu Radio Veneto. Vi invitiamo anche alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, naturalmente segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download sul sito bluradioveneto.it. Con un cordiale saluto al nostro regista. Naturalmente. Benissimo, stasera avremo con noi un ospite graditissimo, che è il signor Mauro Zanato, che ci presenterà i suoi scritti. Buonasera Mauro. Buonasera, grazie. E bentornato nella nostra trasmissione. Bentornato. Grazie. Ecco, allora adesso ti ascoltiamo la prima canzone e poi proseguiremo col programma. La prima canzone è una canzone estiva, Estate senza te di Christophe. Castelli di sabbia che sbatto giù su questa spiaggia dove eri tu. L'estate è giunta ma senza te, il sole brucia ma non per me. Barca sta legata al molo, io le darò la libertà alla deriva, ci andrò da solo, l'amore mio non ci sarà. Castelli in aria, caduti giù, mi resta solo la fantasia, disegno un viso, sei sempre tu, arriva un'onda, ti porta via. Di nuovo in studio, Allora, Antonio, cominciamo con la nostra rubrichetta, la poesia. Sì, sì, la storie de che altri, noi ci facciamo anche infatti degli altri a volte. Storie de che altri per dimostrare che se esistono delle barriere linguistiche non ci sono barriere ai sentimenti, eccetera. Questa è una poesia, una composizione scritta oltre due secoli fa, una poesia tedesca, che sembra però diciamo attuale. Scritta, esatto, molto, una discottante attualità, sì, diciamo, sì. Scritta da un inedito duo poetico composto da Frau Angela Merkel e dal ministro delle finanze Wolfgang Schäuble. La poesia è una composizione, diciamo, di Johann Wolfgang von Goethe, dal secondo viaggio in Italia. Il primo era stato compiuto nel 1786 fino all'88. Tutti i tentativi di Goethe di ripetere l'esperienza unica e stimolante del primo viaggio fallirono. La seconda volta, che è oggetto di questa diciamo poesia, arrivò fino a Venezia, ma non vide più gli ideali classici. Ora vide invece il disordine e il malfunzionamento delle cose pubbliche. Oibò! La terza volta arrivò solo fino al confine e poi tornò a casa. Il suo bisogno di evadere non era più sufficientemente grande, evidentemente. Dal secondo viaggio in Italia, 1790. Noch ist Italien, wie ich's verließ. Noch stäuben die Wege. Noch ist der Fremde geprellt, stell er sich, wie er auch will. Deutsche Rechtlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebens. Leben und Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht. Jeder sorgt nur für sich, ist eitel, misstraut dem anderen. Und die Meister des Staats sorgen nur wieder für sich. Schön ist das Land, doch ach, Faustinen finde ich nicht wieder. Das ist Italien nicht mehr, das ich mit Schmerzen verließ. Allora, adesso la leggiamo in lingua italiana. Quindi dal secondo viaggio in Italia. L'Italia è ancora come la lasciai, ancora polvere sulle strade, ancora truffe al forestiero, si presenti come vuole. Onestà tedesca ovunque cercherai, invado. C'è vita e animazione qui, ma non ordine e disciplina. Ognuno pensa per sé, è vano, dell'altro diffida. E i capi dello Stato, pure loro, pensano solo per sé. Bello è il paese, ma Faustina, ahimè, più non ritrovo. Non è più questa l'Italia che lasciai con dolore. E qui non ci sono, non servono commenti, devo dire. Ecco, appunto, appunto, appunto, appunto. E allora adesso diamo la parola al nostro Mauro. Mauro, raccontaci un po' di te, perché ne abbiamo parlato tempo fa, ma adesso i nostri ascoltatori non si ricorderanno più. Mauro ha scritto diverse poesie e anche due romanzi, vero? Tre. Sì, due romanzi, ecco. Il terzo è In attività. Allora, hai scritto L'orologio? L'orologio a cronometro, il primo libro nel 2004, poi Controluce poesie nel 2006, edito da Edizioni del Leone, e l'ultimo, Fiume Storga, I segreti del Fiume Storga, terza risorgiva sinistra, Piazza Editore. Sono tre libri completamente diversi e comunque fanno parte, diciamo, del mio io, del mio, non sono autobiografici, questo no, a parte il primo che spiega però in modo un po' approfondito cosa vuol dire l'assenza di un padre, cioè la morte di un padre in età infantile, e quindi come viene raccolto nel pensiero del bambino e come viene interpretata questa mancanza. Ecco. Ce la vuoi spiegare un pochino il libro? Sì, così proprio un riassunto sintetico. Beh, parla di quando avevo 4 anni e mio padre mi ha lasciato e tutte le storie che girano intorno a Santa Maria del Rovere, parte via Ogobassi, via Quitte, via Madonetta, e sono tutte le avventure di bambini, ma una introversione di questo bambino che non riesce a comprendere questa assenza e la interpreta come qualcosa di... Che gli è stato rubato. Che è stato rubato, ecco, perché ancora a quell'età non aveva ancora il senso della morte. Poi cosa hai scritto? Poi Controluce, un libro di poesie, un centinaio di poesie, edito da Edizione Leone, in cui si parla soltanto esistenzialista, non negativo, diciamo non pessimista, ma che parla del proprio del vissuto e delle esperienze che ti gravitano attorno. Se magari ne hai qualcuna, la leggiamo, Antonio. Di queste. Benissimo. Quindi c'è Telegiornale che sarebbe attuale. Mani polverose avanzano a cercare rifiuti. Sorrisi spenti in attimi irripetibili. Gesti che hanno nel sudore l'impasto della creta. Volti riarsi dalla tormentosa necessità di essere amati. Questo palcoscenico s'apre a figure gessate dai barocchi disappunti di spettatori seduti in prima fila ad osservare irriverenti questa commedia per voyeur. Spampanati sulla poltrona, avvezzi al facile pianto, già sazi attendono la cena. Questo è attuale per bello, quanto riguarda bello, questo è molto molto attuale. Afghanistan e via dicendo. Da lei, leggine pure qualcun'altra. O sino Bambini di Beslan. Ecco, anche leggi quella, anche sì. Questo è molto attuale. Tutti questi profughi, tutta questa gente che fugge dalla guerra, questo strazio, questo uomo che non cambia mai e che si ripete costantemente nelle disgrazie, nella sopraffazione. Bambini di Beslan. La mia anima è mille frammenti di vetro, ogni pezzo altrettanti ritratti di bimbi. Frammenti, solo frammenti, non parlo di sogni ma di una realtà senza commenti, di volti che passano grevi, straziati, maciullati, di sorrisi sospesi, la vita dipinta nel fumo che sale. Non grida o lamenti, soltanto uno scoppio beffardo a recidere le gemme già in fiore. La mia anima è mille frammenti, è uno specchio che tace e riflette, il pianto di un uomo che chiede chi sono, chi siamo. Non lo so, ho solo un pulsante per spegnere il televisore, quei muri anneriti, la terra ancora tremante sotto il sole, la fuga che cerca e incontra un abisso e fragoroso silenzio. La mia anima ora è decine di bimbi e un unico grido, un unico pianto che si perde. Lo so, domani pulirò la mia vita al bar, leggendo assonnato il giornale, con il solito cappuccino e brioche, Totti del Piero Ronaldo, senza domande, senza risposte. Anche questo è una bello. Forma di assenteismo, d'altronde non si può sempre vivere con la croce addosso. Bisogna anche cercare, se il cuore ti piange, cercare di evadere in continuazione. Non è sempre facile. Non è facile. Vero Antonio? E questo non avviene. Facile purtroppo non è, e naturalmente serve questo come coscienza critica, come monito per il futuro e per il presente, naturalmente. Andiamo alla seconda canzone. Allora, la seconda canzone in programma, Non c'è più niente da fare, cantata da Bobby Solo. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, il nostro amore sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta sol che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale chiediamo naturalmente per maggiore, come posso dire, conoscenza da parte dei nostri ascoltatori, di tracciare un breve profilo biografico di se stesso. Beh, per quanto riguarda oggi, tuttora, sono ortolano, in parte poetuncolo e pensionato, e questo è già una bella cosa. Cosa significa ortolano? Che hai un orto per conto tuo? Sì, un orto non grande, un 70 metri quadri, in cui cerco di farlo vivere con la teoria, con l'antroposofia di Steiner. Cioè? E allora coltivo e cerco di seguire la Biolca, che è un calendario in cui spiega quando mettere le radici, quando trapiantare e via dicendo. Mi permetto di interloquire, questo potrebbe essere oggetto di una futura nostra rubrica, nostra trasmissione, un altro intervento da parte del nostro ospite, e io la butto lì, poi vediamo che cosa succede. Sì, è molto interessante. Ecco, questo mi ha ispirato un po' un libro inedito ancora, ne ho parecchi ancora di inediti, visto che il momento non è favorevole per pubblicare, per cui lo tengo magari ai posteri. No, beh, si spera che tu riesca a pubblicarlo, no? E col tempo, sì. Come l'hai intitolato? Mia terra. Mia terra, ma sono poesie che sono scritte... ecco, io scrivo come un dottorino, nel senso che scrivo e poi non riesco più a tradurmi. Ho capito. Perché scrivo di getto, non correggo mai le poesie, perché penso che l'essere naturale e spontaneo sia la cosa migliore. Qualche errore ci sta, d'accordo, ma insomma la spontaneità è per me la cosa migliore. Non cerco sinonimi opposti, non cerco di ravvivare la rima o via dicendo, ma soltanto di dare nella poesia un senso, una sensazione. Non è poesia intellettuale, assolutamente, si parla di terra e basta, è poesia prettamente di sensitività. Quindi quello che io ho dentro cerco di trasmetterlo anche a me stesso, perché io mi rileggo le poesie e tante volte dico: ma chi è questo macaco che ha scritto questa poesia? E quel macaco mi ritrovo che sono io. Quindi tu hai scritto poesie su, sui lavori, sulle cose che fai nell'orto? No, poesie per del contatto proprio della terra. Della terra. Si parlava di un ciclista, un Uran Uran, e al Giro d'Italia, che tutti i telecronisti erano parecchio meravigliati per quanto riguarda che lui, prima di in ogni occasione o anche per caricarsi, abbracciava gli alberi. Beh, chi lo sappia, gli alberi li abbraccio da quando ero piccolino. Anche quando dovevo eventualmente defecare, cercavo sempre un albero che mi dia la mossa, la scossa e il desiderio di avvicinamento. E questo è proprio un modo di essere attaccati alla natura, no? Sì, la natura, gli animali, a tutto ciò che ci circonda. Nel mio caso mi isola un po' dal contesto odierno e mi dà una carica molto forte. Bene, allora che poesie ci leggi adesso? Per quanto riguarda la mia terra, una poesia scritta ai primi di giugno che si chiama Mio Tibet. Cosa vuole dire? Che talvolta si cerca di fare lunghi viaggi per cercare una sensazione, un qualcosa che ti riempia l'anima. Quando che in definitiva a un passo da te o anche a te stesso, visto che Dio ci ha attaccato più della nostra giugulare, come diceva qualcuno, ce l'abbiamo ad ogni istante. Basta soltanto sentirlo e predisporsi a questo sentimento, insomma. Il mio Tibet, è un po' ironico il titolo, dice questo: sentire il cadenzato passo nel limite dei campi, dove gli olmi creano confini. Seguire le curve d'un fosso nell'orchestra di volatili canti fra canneti. Tuffarsi nel profumo nascente del vivere, lì dove calle separano infinito dal nulla. L'assaporare il tutto in microcosmo, quasi a voler raggiungere terre lontane. Percepire l'ora tarda è il sempre che ti assolve da inutili verità, nel riassunto del poco da centellinare fra strette labbra in gocce di sudore. Sono un po' difficiline. Comandi? Sono un po' difficiline da capire. Un po'... Beh, forse sì, difficiline, ma no, assolutamente no. Sarà che sono mi un po' complicato. Allora, queste poesie riguardano la terra, no? Sì. Ecco. E, quindi, tu, qual è il genere di poesia che preferisci scrivere? Amore, terra, animali? Beh, ho scritto d'amore e sempre anche questo inedito, Origami d'amore. Ma vario, dipende dal momento. Io scrivo di solito quando è notte, nell'una, due, anche via dicendo. Qui, e quando sono più solo, meno rumore attorno, quindi. Allora, le poesie d'amore le leggiamo noi, se gliene dai una anche qualcuna ad Antonio, io sì, ne ho ma qui qui. Ecco sì, magari anche Galaverna, che non è complicata sicuramente. Sarò per te Galaverna, facciamo cominciare ad Antonio, siamo cavaliere anche noi. Sarò per te Galaverna, io vivo sulla riva del silenzio, dove l'unico rumore è il cristallino respiro, dove i fiori sono occhi che piangono rugiada. Io esisto negli attimi della sera che scende come tela di ragno a baciare l'umida pietra. Per te tesso ragnatele di molli pensieri, rincorrendo una luce che sfuma. Per te rivivo nell'ultimo bagliore che penetra le fronde, un saluto prima dell'incantesimo notturno. Poi, con un balzo, raggiungerò le stelle, raccoglierò in un cesto la luce aspettando il mattino. Porgerò la guancia alla luna, oltrepasserò i sogni, dipingerò i rami spogli, le disadorne siepi di incontenibile bellezza. Quindi attenderò il risveglio e abbraccerò il tuo stupore. Bella, vero? Questa è la Gala Verna, crea sempre stupore. Io leggo fiumi. Pieno di te, in te, la pelle, l'acidulo sapore, i tuoi sospiri, il volto contratto, le carni mosse, libere, onde nel candore, i nostri istanti liberi, fiumi in piena, straripanti, poi il gioco delle luci soffuse, la terra calma che contiene, accoglie fra il verde e la spumosa pianura nel dormiente giorno, sempre più muto. Eterna sete, parole d'aria soffiate nell'imbuto dei ricordi, ora riaccesi da languide movenze. Tremuli petali i tuoi occhi, sorridenti di terre maggesi, capricci d'estate le dolci labbra rosse di rosa, alabastro il collo snello d'indaco dipinto, dune scoscese e seni dove lo sguardo si sofferma e indaga, celato nido il sesso lì la mia arsa bocca cerca e di te non rimane che la sete. Ne hai delle altre, mi pare, no? Di queste? Sì, ecco. Anche Preludio in musica, diciamo, anche se non fa parte di Origami d'amore, sì, fa parte anche questa di Origami d'amore, però è un po' diversa e meno piccantina, diciamo. Preludio in musica, risuono di canti che hanno nel passo breve un sollevarsi d'ombre, di sere profumate d'acacia, brillanti di timide stelle figlie d'accese mattine. Discendo nell'arzigogolato cammino, nell'oscura capacità delle macchie attratto dai lumi accesi e rotondità di sassi che conducono al molo. Lascio così nell'abbandono le mani appese alle nude rocce del porto, mentre l'anima oscilla nell'onda aspettando il ritorno vitreo verso un mare che placa accompagnandomi al largo, cercando solo questa pace libera che s'addormenta in musica. Io leggo bacio. Appassionato offrire riempie l'anima come ciglia di sole in un mattino uggioso. Calde labbra avvolgono turgida bocca come ondosa fronda richiama voce d'acerba estate. Tu, Antonio? Amata. A chi dovrei dire amata? Se quel fiore reciso profuma ancora nelle mani, se io incauto, privandoti la terra, ho ancora linfa per farti rifiorire. A chi potrei dire vita nella vita? Se ora, sapendoti padrona, morir non posso per i tuoi colori, e colorando vado in ogni istante quell'egoistico gesto di darti il mio cognome. Bella, belle. Io leggo tramonto. I tuoi occhi donati al tramonto, persi nell'assopito raggio che nell'acqua allunga le mani, penetrando nell'onda. Attratto ti guardo nel sorriso che illumina il tuo volto, i 20 anni riaccesi in un languido salto ritroso, il sapore del salso nella mia bocca, impastata di sete, cercando va a quel gusto mai svanito, anzi distratto, poi con pudore allungo il giornale fra le tue umide cosce, smorzando il respiro. Questa notte non dormirò, scoprendoti nuova ancora in questo tenue chiarore che a entrambi ha donato l'ardire. Bene, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e poi riprendiamo con il nostro Mauro. La terza canzone in programma è Accanto a te l'estate, cantata da Adamo. Accanto a te l'estate scorrerà come un sospiro, come una carezza. Accanto a te l'estate canterà come in un sogno, come un dolce poema. Mi sento un marinaio quando i tuoi capelli ondeggiano sul mare come alghe bionde, e mi sento gran mago quando con un bacio accendo un sole al cielo della tenerezza. Accanto a te l'estate ballerà nel vento con le bianche vele sull'acqua d'argento. Accanto a te l'estate vestirà di festa e ci regalerà i gioielli del sole. Accanto a te l'estate volerà leggera e ci sussurrerà mille parole d'amore. Sarà la nostra estate per noi due, il mondo si dondolerà ad un raggio di luna. Ed ogni notte, amore, io ti cullerò e t'addormenterai in un manto di stelle. Accanto a te l'estate passerà, lasciando nell'aria una dolce musica. Ma accanto a te l'estate durerà come un incanto per tutta la mia vita. Eccoci di nuovo in studio e prima abbiamo letto qualche poesia dalla Sillogi Origami d'amore e adesso Antonio ci leggerà qualcos'altro. Dai segreti del fiume Storga, terza risorgiva a sinistra, ritorna il bel canto. Una piccola selezione. Sentivo Palmiro parlare l'anguana nella pioggia di marzo che picchiettava fra il verde di tenere foglie. Seduto sotto un rovere tentava di cantare. Al suo fianco Arturo faceva da basso, zufolando qualcosa fra il suono e il rumore. Alle prime gocce avevano lasciato le vanghe conficcate nella zolla e al profumo del maturo concime inviavano verso il cielo uggioso di quel mattino note di struggente malinconia. Passò in quell'istante Gnagno, soprannominato dagli amici Grappa Tonini, chiedendo asilo sotto l'albero. All'acre odore dei campi si aggiunse un vaporoso sentore di vinaccia. «Buongiorno, Tonini!» salutò Arturo. L'uomo, piccolo di statura, di età indecifrabile, rispose con un borbottio. «Guarda un po' se con tutta questa pioggia sono costretto a patire l'arso. Avete da bere?» «Acqua in abbondanza!» rispose Palmiro canzonandolo. Tu, giovane, non rompermi tafferugli. Oltre alla grappa, qualche volta bevo anche vino. Arturo fece mezza torsione del busto, allungando il braccio, prese una fiaschetta nascosta dietro un tronco. Gnagno, senza cenno di ringraziamento, trangugiò a garganella. Insoddisfatto, si rivolse ad Arturo. Questa è acqua mista ad aceto o è aceto misto ad acqua? Raboso, rispose l'interlocutore. Raboso da pediluvio. Questo passa il convento se ti garba. Gnagno prese un fazzoletto dalla tasca dell'impermeabile e soffiò con veemenza il grosso naso color oliva matura, guardò l'espettorato e con cura lo piegò. Avvicinandomi vi ho sentito cantare. Tu fai schifo, disse rivolgendosi ad Arturo. Il giovane ha notevoli progressi, ancora una settimana e la voce sarà perfetta. Parola di intenditore. Tutti conoscevano la storia di Grappa Tonini. Dicevano che da giovane fosse stato realmente un grande intenditore d'arte. Poi, per cause indefinite o forse per il bere, il cervello iniziò a fare le bizze. Di natura solitaria e scorbutica, di rado si soffermava a colloquiare, ma quel giorno la voce di Palmiro l'aveva tratto come un fiore il calabrone. A proposito di vino, ecco cosa ti serve, giovane. 3 risciacqui di acqua e aceto al mattino, 3 il pomeriggio, altri 3 la sera. Vedrai tutto, passerà alla svelta. La gola sarà una gemma nel punto di sbocciare. Troppo semplice, replicò Arturo. In effetti, la semplicità è la formula di ogni cosa. Gnagno riprese il fazzoletto, perlustrò le cavità nasali avvolgendolo attorno al mignolo, osservò il contenuto ripiegandolo. Ascolta Arturo, il canto non ti si addice, ma quel dipinto murale, devo dire che lo stai modificando in modo mirabile, sembra una scena vera. Quale modifica? Io non ho fatto modifiche. Beh, lo so, siamo rinchiusi qui per qualcosa, quindi non mi meraviglio della tua meraviglia, però almeno fra noi, togliamoci la maschera, siamo seri. Maschera o non maschera, qualche malandrino ha cancellato la mia aquila e quel fetente non sono certamente io. Gnagno sorrise a quella risposta. Solo tu hai quel tocco di pennello, lo riconosco tra mille. Quella purezza di colore l'ho riscontrata in un pittore da me conosciuto, morto circa un decennio fa, Ligabue. Bada, il mio è un complimento. I fumi dell'alcol salivano nella mente di Arturo affolate, dense come nebbia novembrina. In quell'istante pensava alle stranezze avvenute negli ultimi 15 giorni, al dipinto, la fuga dell'aquila, di Palmiro, l'anguana, l'apparizione del diavolo Massariol, ora come lieto fine il tanto decantato Ligabue. Immaginava una luna color gesso ferma nell'infinita lavagna attendere un pittore, discendere le scale del buio per dipingere con leggeri tocchi di luce la parete annerita del tempo. Il colore ha la naturalezza dell'acqua, una cristallina trasparenza, aggiunse il Gnagno con enfasi. Qualche notte resterò vicino alla rimessa ad aspettarlo. Prima o poi avrò il piacere di incontrarlo, questo Ligabue, disse Arturo. Forse mi sono spiegato male. Quel pittore è morto e defunto. Ah, a volte ritornano. Se ritornano. Allora. Simpatico. Come si nota, c'è dovuto entrare qui dentro questa mentalità un po' confusa di questi personaggi. Dirò, non ho fatto alcuna fatica perché anch'io non sono molto, sono anch'io un po' confuso, per cui mi sono trovato fra la mia gente. Ed è bello nel senso, bello, nel senso che è proprio sostanziale, è proprio così, è proprio come l'ho vissuto realmente, senza tanti fronzoli. Una vita quotidiana dove, che succedeva in quei posti in cui ho cercato di trovare il lato allegro, il lato positivo della cosa, insomma. Ma, chiedo scusa se interloquisco, quei posti sarebbe probabilmente utile spiegare di che posto si trattava. Sì, l'ho accennato lì nel scritto, sarebbe il manicomio di Sant'Artemio. Prima della legge Basaglia, cioè dopo la legge Basaglia, lì sono rimasti, diciamo, io li ho chiamati in libro dei residuati bellici, erano per lo più alcolizzati, anche dei down, degli abbandonati, comunque, che erano addetti ai lavori della terra. E in questo ho cercato una certa comunicabilità, e nel bere il vino, nell'assaggiare salame, quasi l'avvicino a una comunione fra di loro, insomma, ecco, una convivialità. Ho cercato di dare luce alla convivialità di queste persone, alla loro semplicità e ciò che è occulto magari all'apparenza, e la potenza e la forza che hanno comunque dentro. Ho cercato di rilevare questa forza che talvolta non è espressa totalmente. Ecco, tutto sì, qui. Sì, certo che Adon. Comunque, questo l'hai pubblicato, questo libro? No? Questo l'ho pubblicato nel 2011, fine anno 2011, novembre mi sembra, 2011. Ho capito. Adesso mi intendi pubblicare anche gli altri o...? Con il tempo, qui ci sono già 4 libri di poesie scritti, preparati, poi sto lavorando a un romanzo nuovo, cioè? Sempre comunque, sempre fantastico, che io ho un grande amore per i gatti, sempre questo Casimiro che qui nel racconto riuscirà a fare un viaggio con Cristoforo Colombo, e dirò in ultima che in definitiva chi scoprì realmente l'America non fu Cristoforo Colombo, ma bensì questo gatto Casimiro, ecco, è un sorcio che era diventato suo amico. Cioè, scrivi a mo' di favola, insomma. A mo' di favola, sì. Diciamo la Sepulveda. Ah, sì, sì, sì. Ma a me piacciono queste cose così semplici, così immediate, così... Comunque sono sempre legate alla realtà, eh? Sì, certo. Adesso, per esempio, non hai ancora pronto il romanzo, questo qui che dicevi che non è pronto ancora. Ce l'ho tutto in testa, dopo basta scriverlo. Ah, ho capito, quindi... Cioè... Io prima me lo faccio in testa e poi lo scrivo. Vabbè, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e poi... E poi proseguiamo con te. Adesso andiamo. Adesso Luigi Tenco ci offrirà Lontano, lontano. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. Sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. Di un mondo per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto. Sarai con un altro. Bene, ritorniamo in studio. A te la parola, Mauro. Adesso che cosa ci presenti? Ho scritto una poesia dialettale, sempre mia terra, dialetto fra parentesi perché è un dialetto che scrivo io non so scrivere in dialetto, però lo dico, lo leggo come lo sento e come mi viene, insomma, ecco. Non avendo ho parlato in italiano per tutta la mia vita fino a 15 anni dico, e poi parlavo romano, napoletano. Come? No, non capisco. Perché ero in collegio, sono stato in collegio una decina d'anni e allora parlavo come parlavano i miei amici. Ho capito, quindi ti adeguavi... Mi adeguavo al compagno, quindi parlavo in napoletano con un napoletano, in calabrese con il calabrese, il pugliese e via dicendo. Quantomeno la tonalità. E poi sì, logicamente... Sono diventato italo-veneto, ma del Veneto, che mi piace moltissimo il dialetto veneto, mi è rimasto, non riesco a scriverlo, non sono buono. Però, però ho scritto questa poesia come la sento e come con la musicabilità che mi sentivo di scrivere. Vabbè, allora l'ascoltiamo. Tratta da Mia Terra, intitolato Porcheria. Me sento un poeta Pipu Areto quando vedo la mia terra bastonata, calugnata come una cagna. Quando un fiume viene a nerio dalla pece e forma a pel de acqua una lasagna, e non go pose nell'osservar la livrea della ana randaria che aga perso e specio. Ecco che in mi tutto diventa vecio e vado in avaria. Sarà perché sto mondo lo ga fatto un creator felice, sarà perché un poeta che si illuminò d'immenso se saria vergognà de tanta porcheria. Poesia strana, sì. Beh, insomma, comunque, ma cosa ti ha ispirato a questa poesia? Come mai hai scritto questa poesia? Ah, vedendo i vari versamenti di petrolio o altro nei fiumi, nei laghi, nei mari, insomma, ecco. E osservando una scena di un gabbiano che saliva la spiaggia nel rito, sì, mi ha un po' preso. Beh, adesso vediamo un po', parlaci un po' di quello che farai in futuro, quello che intenderai, che hai in mente di fare in futuro. Poesia, se posso, semplice, nel senso di sensazione e basta, come ho detto. Ma hai già in mente? L'intelletto non c'entra niente. Sì, ho già impostato Mia Terra, Origami d'amore, dove c'è soltanto un desiderio carnale di esprimere delle situazioni, qui il cervello viene proprio annullato, dove c'è in gran parte anche istintività. E quindi questo, e poi scrivere libri. Un romanzo, diciamo, sempre legato alla fantasia, perché la fantasia, ho visto, è la strada principale che io posso percorrere, insomma, sempre collegandolo con la realtà, fantasia e realtà. Io sono convinta che in tutte le cose ci voglia il cervello, anche quelle cose, queste poesie che tu dicevi, che sì, sono solo istintive. Per me c'è sempre il cervello di mezzo. Sì, indubbiamente, però diciamo non sono molto accademiche, ecco. Anche se io non posso essere accademico per forza di cose, per via di studi che non ne ho molti, insomma. Ma sai, non occorre essere accademici, però io sono convinta che in tutte le cose ci voglia sempre il cervello, almeno un pizzico di cervello, perché altrimenti... Non lo so, non si fa niente. Sì, non si fa niente. Ecco, no. Appunto. Vabbè, leggiamo ancora qualche poesia, Antonio, uno di voi. Donne. Glicini nel primo sbocciare, solo grappoli pendenti che si accendono all'umido calore della sera, avvinti in spirale ascendono lungo il palo nell'arido cemento incarnati. Femminili colori dal sottile profumo di vita che nel donare avvolgono e nascondono il grigiore. Con l'avanzar della stagione le prime piogge appassiranno i tuoi carnali fiori per lasciare un rigoglioso verde che tutto materno cela e l'occhio non offende. Bella anche questa. Poi... La gioventù svanisce, però rimane sempre la sensualità di una donna e rimane sempre questo senso di protezione e di amore che Dio voglia non sparisca mai la donna. Adesso facciamo di nuovo una pausa per ascoltarci l'ultimo brano in programma, che è Amore scusami di John Foster. Che per gioco ti baciai, sembrava solo un'avventura, un'avventura rivale. Ti baciavo nel silenzio, non volevo confessare che stavo forse a poco innamorandomi di te. Amore, scusami, sto piangendo, amore, scusami. Ed eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche, diciamo, breve che facciamo e chiediamo al nostro ospite che cosa possiamo eventualmente leggere. Ecco, c'è una poesia molto semplice, è un bambino con la mamma, in cui la mamma vuole cambiare delle 1000 lire con le sue monetine. Ecco, lui non vuole perché la quantità è superiore al valore di quel pezzo di carta. Fantasia valore. Sarà perché bambino, ma quel giorno non ho voluto cambiare i tuoi 1000 con le mie monetine da 10 e 5 lire. Quando alla sera le depositavo nel salvadanaio, sentivo il loro tintinnare e tutti questi attimi, avvolti dal terreo porcellino, avevano una ricchezza che l'unico uno, seguito da più zeri, sembrava una cartina di sigaretta pronta a bruciare. Però mia madre era una gran fumettrice. Ah sì? Sì, circa 2 pacchetti e mezzo al giorno, se non mamma di più. Mamma mia. Però è morta alla veneranda età di 93 anni. Guarda un po', tante volte non vuol dire, vabbè, siamo fatti così diversi. Vabbè, allora Antonio, siamo arrivati all'ultima puntata per questa tranche, per quest'anno. Poi... diciamo che il tempo è veramente fuggito, sì, sì. E quindi noi per questa stagione. Non possiamo fare esatto altro che ringraziare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici per averci ancora una volta concesso dato fiducia, cioè. E noi cerchiamo naturalmente di farci in quattro e anche di più per dare un prodotto che sia accettabile da parte di tutti. Abbiamo raggiunto dei traguardi impensabili, sì, sì, anche dal punto di vista dei contatti su internet, oltre sì. 6.500, più naturalmente gli ascoltatori che ci ascoltano in radio ascoltano, direttamente, sì. E questo non può che farci, come dire, renderci ancora più diciamo attrezzati nel prossimo futuro. Noi naturalmente non possiamo fare altro che ringraziare nuovamente, rinviarvi alle repliche che avranno luogo nel prosieguo dell'estate. Poi? E diciamo che come finale, prima di salutare il nostro ospite Egesi, vorrei dire due parole semplicemente. Le parole, dicevo a qualcuno, sono pietre. Possono essere usate per scagliarle, per lapidare qualcuno, oppure per costruire un edificio. Noi vorremmo con costruire. Queste parole costruire questo edificio, anche con le parole della poesia, certo. Come abbiamo sentito ultimamente. Sono, la poesia è un distillato di sentimenti e di emozioni. Vorremmo con queste parole costruire, diciamo, il nostro e il vostro futuro. E a Dio piacendo ci risentiremo a settembre. E naturalmente lasciamo la parola al nostro ospite per salutare. E vi ringrazio e saluto tutti quanti. E grazie di essere venuto, di aver accettato. Grazie mille di aver avuto la pazienza di ascoltarmi. No, di aver accettato il nostro invito e addio piacendo. A una prossima, alla prossima volta. Ecco. Allora anch'io saluto e non voglio lasciarvi senza dirvi il mio solito ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.